Tu che hai comunque un'esperienza storica in questo ambito, che cosa trovi nel modo di fare radio oggi che è ancora rimasto inalterato da quando hai cominciato? Guarda, molto poco devo dire, nel senso che è ovvio che l'approccio alla radio, ecco, la cosa che è rimasta uguale è il piacere che hai quando apri il microfono e sai che sei in onda e parli comunque a dei numeri molto alti di persone. La tua capacità è rimasta intatta l'animalità del microfono, nel senso che le differenze tra un disc jockey e un altro, ti parlo di quelli bravi, non ti parlo dei tanti che lavorano in radio, che c'è una grande differenza tra chi è bravo e chi lavora in radio. Cioè, non necessariamente uno bravo, cioè uno che lavora in radio è bravo, però quelli bravi hanno sempre però questa grandissima capacità di comunicare e riescono ad avvertire sempre che la comunicazione c'è stata e che tu stai comunicando al pubblico, anche se non hai un riscontro di telefonato di SMS, che sono tra l'altro le ultime novità della telefonia. Se tu sei un animale al microfono, avverti proprio in maniera strana le vibrazioni che dai e che ricevi dal pubblico. Questa è una cosa che è rimasta, l'unica cosa che è rimasta è che però non tutti magari hanno, proprio i bravi sì. Una tua opinione personale, preferivi una volta o d'oggi? Oggi che comunque sai a chi parli e hai degli strumenti che ti possono Sono aiutare. due modi diversi. Una volta la radio non aveva, ad esempio, cioè la grandissima differenza tra la radio di una volta e la radio di oggi è proprio la playlist e la programmazione musicale. Una volta i giochi andavano con i loro dischi sotto al braccio a fare la trasmissione, quindi ognuno proponeva il proprio gusto, ognuno raccontava le sue storie, non c'erano dei tempi precostruiti per parlare o per star zitto, decidevi tu, grazie alla tua sensibilità o al tuo modo di essere, al tuo modo di voler comunicare quello che dicevi, e lo facevi sia con la parola che con la musica che sceglievi, che mettevi. E automaticamente tu ti differenziavi dagli altri perché avevi evidentemente una personalità marcatamente diversa. Infatti le radio una volta erano un insieme di più personalità, sia musicali che proprio personali. Oggi la radio forse è più, come dire, spersonalizzata dal punto di vista assoluto, allora la grossa difficoltà è quella di riuscire a rendere questa personalizzata intervenendo in un mare comunque di, come dire, omologazione. È difficile trovare delle differenziazioni tra una radio e un'altra, un network e un altro, se tu non ascolti o il jingle di o lo station break, oppure un personaggio che tu realmente conosci. Perché veramente ormai le playlist sono quasi tutte quante uguali. E adesso quindi per diversificarsi bisogna reimmaginare un qualcosa che sia o legato alla personalità dei conduttori o legato al clock della tua radio, che evidentemente ti permette di essere differente dalla clock di un'altra radio, oppure legato a delle scelte particolari che possono essere quelle di modificare un po' la playlist se tu sei una radio contemporanea, che magari aumentando la quantità di musica vecchia o aumentando la quantità di musica nuova, cioè dipende, o di nuove proposte, ecco, per dare una diversificazione nei confronti dei tuoi competitor, o magari facendo parlare meno di giochi o legando più dischi insieme. Insomma, sono tutte quante delle situazioni che, pur rimanendo la playlist identica o quasi radio per radio, però tu lavori come dire, creativamente all'interno della playlist per cercare di differenziarti dagli altri tuoi competitor. Però insomma, evidentemente il sogno di tutti quelli che fanno radio è quello di farsi la radio che vorrebbero fare loro, che non è sicuramente la radio che fanno. Ecco, appunto, delle ragioni che una volta vi muovevano, quindi il divertirsi piuttosto che poter suonare la musica che vi piaceva o dei motivi politici piuttosto che personali. Oggi perché si fa ancora radio? Si fa ancora la radio perché la radio è precedente alla televisione, però ha dei margini di crescita enormemente superiori a quelli televisivi, nel senso che la radio, ad esempio, la radio ha con il DAB, con le ipotesi dello streaming internet, del fatto che la radio potrà andare adesso sui telefonini, cioè ha tutta una serie di valenze tecnologiche che la fanno essere nel futuro molto più all'avanguardia nei confronti della televisione. E poi la radio è effettivamente un laboratorio di ricerca continua, cosa che la televisione non ha più. Lo dimostra il fatto che la televisione oggi, per poter continuare a esistere, si è dovuto inventare la banalità, la volgarità dei reality. La radio reality non ha bisogno di farlo perché è già un reality quotidiano, perché ogni giorno quando si apre un microfono uno racconta sempre una piccola parte della propria vita alla gente che ti ascolta, cosa che invece la televisione non è in grado di fare. E poi la qualità professionale di chi lavora in radio è molto superiore a quella di chi lavora in televisione, nel senso in radio non sarebbe mai venuta fuori un personaggio come l'ha deciso, perché non sarebbe stato in grado di fare il microfono, invece in televisione diventa un personaggio emergente. E questa è la differenza, no? Evidente tra radio e televisione.